prima edizione. Un'enorme conchiglia color ruggine, linee arditissime, poltroncine grigie, legno di pero. Non siamo impazziti e non è nemmeno la nostra redazione qui a Milano. Buongiorno da Anna Migliorati, prima edizione. Quelli che vi abbiamo raccontato sono invece i colori del nuovo Teatro della Lirica del Maggio Musicale Fiorentino, inaugurato ieri sera con un grande concerto diretto da Zubin Mehta. Una festa per Firenze, ve l'abbiamo tra l'altro anticipato. Noi ieri mattina un po' con prima edizione, però vogliamo anche raccontarvi davvero com'è andata. Lo faremo tra poco con il collega che è andato per noi ieri sera a seguire il concerto. Cominciamo però già col commento dei fiorentini raccolto appunto dal nostro Ubaldo Cianciulli. Per me è bellissimo, davvero eccezionale, sì. Cosa l'ha colpita di più? L'architettura, il fatto anche che da fuori non sia, nonostante sia imponente come opera, non sia invasivo nella città, in generale mi è piaciuto. Per lei? Beh, è la prima opera in tanti anni, moderna, bella, funzionale, che ho visto a Firenze. Insomma, è un buon auspicio di questi tempi. Sono molto contento come fiorentino, veramente. Cosa vi sembra? Ma mi sembra che, sperando che poi possa funzionare, che sia un teatro utile, si sente bene e questo è molto importante. Ce n'era bisogno a Firenze? Ma non lo so, forse magari al momento in cui ci si è pensato di farlo si poteva pensare che sostituire la vecchia sala fosse una cosa che avesse un senso, forse è arrivato nel momento un po' sbagliato, non lo so, ma i teatri si valutano, la vita dei teatri si valuta nel lungo periodo, quindi ne riparliamo fra 30-40 anni, direi. Posso chiedere anche a lei un commento, un'impressione su questa nuova opera? Beh, io sono molto felice di sentire un'acustica decisamente buona, se non ottima, almeno vorrei provarla anche dall'alto, ma decisamente si sente molto bene l'orchestra, l'opera architettonica apparentemente è splendida, vorrei vederla poi fuori di giorno naturalmente, ma sono felicissimo di questo. La collocazione in questo luogo, in questa zona urbanistica della città? Beh, direi che è molto comoda, ora speriamo che sia facile anche poi arrivarci con la macchina, con i posteggi, eccetera, ma direi che è la collocazione ideale, penso, per Firenze. Prima edizione. Le 6 e 16 minuti, siamo pronti a vedere quali sono i temi che dominano questa giornata, questo giovedì 22 dicembre, ed è ancora il lavoro al centro dell'attenzione, con le parole ancora del ministro Elsa Fornero e il dibattito sull'articolo 18, ma non solo, soprattutto sui salari. E allora eccoci con La Repubblica, apertura di questa mattina, Fornero dietro fronte sull'articolo 18. Il ministro ieri ha detto: non ho nulla in mente sui licenziamenti, ma sono stata ingenua. E forse un peccato di ingenuità davvero c'è stato da parte dei ministri tecnici nel prendere posizioni su alcune questioni, aprendo dibattiti prima ancora che ci siano provvedimenti concreti. Ma tant'è, Fornero dietro fronte sull'articolo 18, l'apertura oggi della Repubblica, con all'altra notizia, l'Istat, che dice: Italia già in recessione, in realtà vicina alla recessione. Ma sicuramente il calo del PIL segnalato ieri fa preoccupare. Articolo 18, Fornero frena anche per il Messaggero. Bersani, da matto toccarla ora, e da Berlusconi ultimatum a Monti. L'avete sentito anche in GR24, Berlusconi dice: ci consulti di più. La Stampa, l'occupazione vera emergenza. Fornero, l'articolo 18 è l'ultimo problema. Anche qui l'attenzione, dicevo, puntata sul lavoro. E poi Corriere della Sera, stipendi 10 anni in perdita, tassa e inflazione, così diminuisce il potere d'acquisto. Per questo vi dicevo, attenzione puntata sul lavoro e sui salari in particolare. Un dossier pubblicato oggi dal Corriere della Sera, dal quale si deduce questo: leggiamo, dal 2000 a oggi il potere d'acquisto è calato di 5.340 euro ed è aumentata la differenza tra i salari più ricchi e quelli più poveri. Su questo terreno l'Italia continua a perdere posizione nei confronti internazionali e in questo si inserisce la discussione sull'articolo 18. C'è un commento sul Corriere della Sera che vi segnalo di Pietro Ichino, che da sempre sostenitore di modifiche nell'articolo 18, anche nel dibattito acceso all'interno della sinistra, il lavoro e i veti che non aiutano. Una lettera di Piero Ichino: caro direttore, nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro che si è aperto dopo l'intervista al ministro Fornero, si osserva una straordinaria divaricazione tra la sostanza politica economica della questione e gli argomenti sui quali ci si accapiglia. Questo è solo l'inizio, è un lungo dibattito. Il Sole 24 Ore, l'apertura dedicata a quello che è successo sul fronte dei mercati, in particolare con la BCE che ieri ha prestato soldi alle banche europee per evitare il cosiddetto credit crunch, cioè che non ci sia più liquidità in giro. Asta della BCE alle banche 489 miliardi, così apre oggi il Sole 24 Ore. I big italiani alle banche italiane sono andati 116 miliardi e questo dovrebbe aiutare la liquidità, anche se ieri, come dicevamo, le borse non è che abbiano reagito poi benissimo alla questione. Le altre notizie, torniamo allora sulla Repubblica. Repubblica che peraltro a centro pagina proprio questa notizia: le banche, i soldi, BCE, giù i mercati. Ma la Repubblica riporta anche un dossier, anche lei questa mattina, anche su questo quotidiano c'è un dossier, e riguarda invece l'ICI. Roma tra i 3.000 senza ICI, quello che sarà l'IMU, fondazioni e tennis club. Non solo la Chiesa viene esentata dal pagamento degli imposta sugli immobili, nell'elenco della capitale, partiti, centri studi e enti scientifici. La lista comprende anche aziende farmaceutiche, maison d'alta moda, associazioni di allevatori. Insomma, bisognerà anche capire chi questa IMU la pagherà. E una notizia curiosa ancora sempre dalla Repubblica: la nostra vita a noleggio, ultimo boom anticrisi. Eccolo qua: avere o essere, scegliere non è più necessario, scrive oggi la Repubblica, perché in questo periodo di crisi, tra il comprare e non comprare, ecco che arriva la terza via, noleggiare, un mercato che sta decollando. Il racconto questa mattina sulla Repubblica. Altre segnalazioni dal Messaggero invece, anche qui articolo 18 in apertura, dicevamo prima, la maxi prestito della BCE a centro pagina. Il caso raccontato oggi dal Messaggero: occhi alieni per la Cappella Sistina, 50 sensori la salveranno dalla polvere. Questa potrebbe essere l'ultima frontiera per la Cappella Sistina, racconta oggi il Messaggero. Poi ancora Savina Kailin, incubo finito, liberati dopo 12 mesi 22 marinai della petroliera. Noi ve lo racconteremo con testimonianze e anche qualche retroscena più avanti questa mattina a Prima Edizione. E ancora invece dalla Stampa un'altra segnalazione di un'altra storia di cui ci siamo molto occupati anche a Prima Edizione: Casale Monferrato, ricorderete, il paese che ha fatto l'accordo con l'Eternit per uscire dal processo. Il ministro: niente accordi con Eternit. Che è successo? Che il ministro della Salute Balduzzi ha invitato il sindaco a cambiare idea. Non barattate il risarcimento con l'uscita dal processo, andate avanti così, l'appello, vedremo che succederà. L'immagine è molto suggestiva questa mattina, restando sulla Stampa: altri pianeti Terra ma con un sole diverso, scoperta senza precedenti con un super telescopio NASA. Ci sono altre terre, un'altra terra nello spazio, e lascio a voi tutta la suggestione di questa notizia. Per ritornare invece con i piedi per terra, per l'immagine decisamente diversa che c'è invece sul Corriere della Sera, in Siria 250 morti in 3 giorni, questa è la notizia alla quale dedica l'immagine in prima pagina oggi il Corriere della Sera, la denuncia degli oppositori. Oggi arriveranno gli osservatori della Lega Araba per vedere, cercare di capire che succede in Siria. Le notizie che stanno arrivando anche questa mattina sono davvero di nuovi massacri. Vedremo che succederà. Noi però voltiamo decisamente pagina, questo per quanto riguarda le prime pagine dei giornali, ci torneremo magari ancora più avanti. Nel frattempo una promessa: vi abbiamo detto che vi avremmo raccontato come è andata ieri sera a Firenze per l'inaugurazione della nuova città della musica, apertura di concerto allora con l'esecuzione dell'inno di Mameli, sfilata di personalità, poi davvero tanta musica e tanta curiosità. Ma davvero sentiamo com'è andata, perché c'è con noi Ubaldo Cianciulli che ieri sera era a Firenze. Ciao Anna, buongiorno. Ti dico subito che ieri sera è andata molto bene. C'erano tante persone che hanno quasi completamente riempito i 1800 posti della grande sala del nuovo Teatro dell'Opera, progettato da Paolo Desideri. Molti VIP, ma anche persone comuni, amanti della buona musica, che non hanno voluto perdere l'occasione di partecipare a questa importante serata di gala tenuta a battesimo dal maestro Zubin Mehta, che ha diretto l'orchestra, il coro del Maggio Musicale Fiorentino, commentando che erano 40 anni che aspettava questo momento. Avvicinarmi a questa nuova struttura, che soprattutto la sera è completamente illuminata, si vede anche da lontano grazie alla sua posizione dominante la città, è stato suggestivo ed emozionante. È stato percorrere il lungo viale che per l'occasione ieri sera era illuminato con il tricolore. Salendo le scale poi si respirava ancora l'odore di vernice e di legno, sia perché i lavori sono stati completati in 2 anni a tempo di record, e sia perché proprio il legno è l'elemento interno prevalente che dona tutta la struttura e le sembianze di un enorme strumento musicale. Dicevo, Anna, che tanti sono stati anche i personaggi noti che hanno partecipato all'inaugurazione dell'Opera House di Firenze: Sofia Loren, Virna Lisi, Carla Fracci, Gianni Letta, Giorgio Gori con Cristina Parodi, Corrado Augias, Vittorio Sgarbi, Massimiliano Fuscas, Giuliano Ferrari, il giurista Ugo De Siervo. Tante persone entusiaste, ascoltiamo l'attrice Virna Lisi. Allora, teatro stupendo, per carità, una cosa che Firenze veramente aveva bisogno di una cosa del genere. E questa sera Zubin Mehta ha fatto la stragrande, ha fatto vedere veramente il valore di questo uomo. Insomma, è una cosa, io lo conosco e lo sigo da tanti anni, è un direttore d'orchestra che adoro, per cui un'apertura così è stata una cosa fantastica. Cosa le ha colpito di più? Beh, adoro la musica, per cui la musica è questa struttura che è bellissima. Da un amante della musica, chi della musica ha fatto la sua scelta di vita? Il maestro Giuseppe Lanzetta, direttore d'orchestra, ritiene il nuovo teatro molto bello e funzionale. Ma veramente sono rimasto molto contento e finalmente non abbiamo nulla da invitare dall'estero. Stavo dicendo a qualche amico che l'altra settimana ero a dirigere nel Palau da Musica di Valencia. E sicuramente questo teatro non è secondo neanche al Palau, sia per l'acustica, sia per la grandezza, sia anche per il modo con cui arriva il suono, sia la musica strumentale che vocale, anche le voci risultano molto bene. Ecco Anna, concludendo ricordo che i festeggiamenti per il nuovo Teatro dell'Opera proseguono fino al concerto di Capodanno. Ci sono in programma altri 7 eventi. Stasera si esibirà Stefano Bollani Trio e domani l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino saranno diretti dal maestro Claudio Abbado. Ed è tutto, un saluto da Firenze. Grazie Umberto Cianciulli. È andata così ieri sera a Firenze, promessa mantenuta, dunque ve l'abbiamo raccontato. Torniamo a curiosare invece su quello che pubblicano oggi i giornali, e curiosiamo allora anche sulla stampa internazionale, come facciamo spesso. Facebook si avvicina allo sbarco in borsa con un IPO che nel 2012 potrebbe raccogliere 10 miliardi di dollari per una valutazione della società di 100 miliardi di dollari. Stiamo leggendo dalle pagine del Wall Street Journal. L'obiettivo è quello dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg. Secondo appunto Wall Street Journal, l'idea è quella di fare di Facebook una blue chip, cioè un titolo di punta, cercando di emulare l'influenza, dice ancora Wall Street Journal, del potere della metericolosità delle più grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Apple. Alla faccia davvero del social network. Ormai sembra deciso, le notizie arrivano sempre più spesso in questo senso, che Facebook sbarcherà anche in borsa. C'è anche molto di calcio naturalmente questa mattina sulle prime pagine dei quotidiani, e allora andiamo un po' a vedere che scrivono. La Gazzetta dello Sport: Juve Milan, aggancio scudetto, Natale in tandem, a Udine finisce 0-0, la capolista comanda la partita ma i friulani resistono bene, Conte siamo imbattuti, Allegri promessa mantenuta. Il ritorno delle grandi, l'analisi questa mattina che fa la Gazzetta dello Sport della partite andate in scena ieri sera. E ancora però sulla Gazzetta dello Sport naturalmente l'attenzione è puntata anche all'indagine sul calcio scommesse, che ancora molto fa discutere e che ancora molto dovrebbe svelare. Le indagini sul match tra i nerazzurri e il Padova del marzo scorso, scrive la Gazzetta dello Sport, telefonata di Doni, l'Atalanta trema, sotto esame c'è una chiamata, ci sono anche 3 sms a un cellulare intestato a un consigliere di amministrazione appunto dell'Atalanta, così quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, naturalmente tutti i particolari come sempre nelle pagine interne. Il rompipallone di Gene Gnocchi per strapparvi un sorriso questa mattina. Cassano spiega l'aggressione dell'altro giorno alla troupe televisiva: volevano riprendermi mentre uscivo da una libreria. Così scrive questa mattina Gene Gnocchi. Prima edizione. Ed è il momento di Italia in controluce e le inchieste di Radio 24. Italia in controluce. E il 22 dicembre vi parla Daniele Biacchesi. Si intitola Vicini di mafia ed è l'ultimo libro scritto da Roberto Galullo, sottotitolo Storie di società ed economie criminali della Porta Accanto, pubblicato del Sole 24 Ore. Roberto, tu sei tra l'altro una voce nota di Radio 24. Questo è un libro in cui fai vedere che la mafia non appartiene solo ad alcune regioni del sud, ma la mafia si è infiltrata ormai da tempo nelle regioni del centro-nord, cosa che spesso la gente fa fatica a comprendere. Quando è avvenuto questo salto, diciamo, della mafia? Ma questo libro va nel proseguimento logico del precedente, uscito sempre con il Sole 24 Ore lo scorso anno, Economia Criminale, in cui cominciai a mettere sotto la lente le regioni del centro-nord, perché sembra quasi che la mafia al nord si sia scoperta negli ultimi anni. Così invece non è assolutamente. Ed è opportuna quindi la tua domanda su quando è avvenuto questo salto. Per quanto possa sembrare paradossale, questo salto è avvenuto circa 40 anni fa, perché circa 40 anni fa le famiglie mafiose capirono che il territorio, i nuovi territori, le nuove aree di pascolo, chiamiamole così con un termine magari non propriamente fine, ma rende l'idea, sarebbero state proprio le regioni del nord. Ad aiutare moltissimo questa emigrazione delle mafie al nord ha aiutato il maledetto, lasciatemelo dire, confino, vale a dire quelle aree esterne ed estranee alle regioni del sud, nelle quali furono mandati moltissimi personaggi legati alla malavita con l'intento di allontanarli dai paesi nativi. In realtà poi hanno creato nei luoghi dove c'erano una nuova rete criminale. Questo lo dicono tutti gli esperti, non ce n'è uno solo che vada in contraddizione. Là dove sono giunti hanno purtroppo fatto proseliti. Ed ecco quindi che questo salto, avvenuto circa 40 anni fa, ha poi continuato ad alimentarsi. Grazie ad Alessandra Tedesco e a Roberto Galullo. La prima edizione di Italia in controluce torniamo oggi alle 13.30 su Radio 24. E nel frattempo torniamo in diretta con Prima Edizione. Ancora buona giornata, ancora buon giovedì da Anna Migliorati. Che succede in queste ore? Beh, un dibattito sicuramente è aperto dopo l'incubo finito per i 5 marinai italiani ostaggio da febbraio dei pirati somali. La petroliera Savina Kailin e 22 membri dell'equipaggio sono stati liberati, ma la domanda è: stato pagato un riscatto? E soprattutto ci sono molti altri marinai ancora lungo le coste somale che sono prigionieri. Allora vogliamo capire che succede, qual è il quadro, quali sono le ultime notizie. Io saluto Cristina Carpinelli, buongiorno. Buongiorno Anna. Allora sì, innanzitutto vi dico che stanno bene e sono liberi dopo quasi 10 mesi, 22 marinai, e tra loro ci sono 5 italiani della Savina Kailin, rapiti come dicevi tu al largo della Somalia l'8 gennaio scorso. Perché sono stati liberati ieri e non prima? Questo ci si chiede. I pirati somali sostengono che sia stato pagato un riscatto, 11 milioni e mezzo di dollari in due tranche. Il racconto è incredibile se vero. Praticamente i soldi sono stati lanciati da un elicottero. Una prima parte, 8 milioni e mezzo di dollari, è servita per liberare 17 marinai indiani. La seconda parte, 3 milioni di dollari, sempre lanciati dall'elicottero, è servita a liberare i 5 italiani. Una teoria questa che è stata negata totalmente dalla Farnesina e dalla società armatrice Fratelli D'Amato. Ieri è stato ribadito più volte dunque che non è stato compiuto alcun blitz e che non è stato pagato alcun riscatto per la liberazione, ma comunque appunto è tutto ancora da verificare. Pagato o non pagato, quando la notizia ieri pomeriggio è arrivata a casa dei familiari quasi non ci volevano credere. La moglie di uno dei marinai, Antonio Verrecchia, la signora Tina, quando l'abbiamo sentita ieri continuava a dire che voleva avere rassicurazioni totali dalla Farnesina. Sentiamo. Benissimo, stupendamente benissimo, come devo dire. Dopo quanto tempo? Dopo quanto tempo di attesa? 10 mesi. L'8 gennaio avrebbe fatto 11 mesi. Ormai quasi non ci credeva più neanche lei. Ma infatti aspettiamo notizie più certe. Io quando me lo dirà la Farnesina sarò veramente più tranquilla di festeggiare. Adesso invece che la notizia è certa, si sta proprio festeggiando a casa dei 5 marinai, ma grande soddisfazione è stata espressa anche da parte del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal Premier Mario Monti e dal Ministro degli Esteri Giulio Terzi. L'attacco alla petroliera italiana, una petroliera da 105.000 tonnellate, era avvenuto in pieno Oceano Indiano, come dicevamo, 10 mesi fa. Il comandante, l'italiano Giuseppe Lubrano Lavadera, originario di Procida, aveva tentato di sfuggire all'assalto compiendo delle manovre evasive con repentini cambi di rotta e di velocità, però appunto non era servito praticamente a nulla. A questo tentativo erano seguiti poi mesi di privazioni, minacce, violenze. L'ultimo appello era stato trasmesso dalla trasmissione Chi l'ha visto, ed era proprio il capitano Giuseppe Lubrano Lavadera a parlare di torture. Diceva: ci stanno torturando, stiamo morendo, aiutateci. Ecco perché in questi mesi non c'è stato proprio completo silenzio. Li abbiamo visti, li abbiamo sentiti parlare e raccontare quello che stava succedendo, ed era abbastanza impressionante il loro racconto, Cristina. Sì, era impressionante, e poi era impressionante anche la modalità, nel senso che c'erano dei momenti in cui sentivi che c'era molta pressione, anche i giornalisti erano quasi chiamati a dare visibilità alla notizia, momenti in cui gli stessi familiari chiedevano a noi giornalisti la più completa discrezione, il silenzio, proprio perché sentivi che era in corso questa trattativa, e quindi deve essere stato veramente snervante per chi l'ha vissuta in prima persona. Quando è che arriveranno in Italia a questo punto? Sono già nelle mani, immagino, di funzionari della Farnesina? Sì, sono liberi, noi non abbiamo ancora un'indicazione precisa sull'arrivo. Ieri le prime dichiarazioni fatte dal comandante semplicemente confermavano il fatto che erano liberi. Io credo che tecnicamente si dovrà aspettare oggi nel tardo pomeriggio, però onestamente non per ho organizzare il viaggio, certo. Esatto, precisa. Ecco, resta, come raccontavi tu, questa questione che pure la Farnesina nega di questo riscatto pagato. Innanzitutto è una cifra enorme, perché comunque parliamo di grosse cifre. 11 milioni e mezzo di dollari. 11 sì. milioni e mezzo di dollari. E attorno a tutto questo i pirati somali ne hanno fatto una vera e propria economia. Dicevamo, ancora 200 persone sì. circa sono nelle loro mani, e praticamente quasi tutte queste liberazioni poi avvengono appunto col pagamento del riscatto, una sorta appunto di economia legata al dazio da pagare per tutti i paesi che vogliono circolare in quelle acque, con il forte rischio che ci siano dei sequestri. Sì, tanto, tanto alto questo rischio, Anna, che addirittura l'Unione Europea ha definito una sorta di missione navale antipirateria che ha un nome, si chiama Atalanta, ed è appunto una flotta di navi che a turno appunto attraversa i mari somali, e ci sta dando appunto questo quadro di cui parlavi anche tu. Ci sono oltre 200 persone in ostaggio, e tra loro c'è anche una donna. L'unica degli ostaggi, sì. Ma e su queste navi peraltro succede spesso invece che ci siano anche addirittura così degli uomini armati che sono deputati a fare questo. L'abbiamo raccontato anche noi a Radio 24 più di una volta, anche di manovre azzardate di alcuni capitani piuttosto che di interventi all'ultimo per evitare tutto questo. È una rotta però necessaria, da lì bisogna passare, non si può non passare dalle coste somale. in qualche modo è un, diciamo così, una tappa forzata. Una tappa forzata, e quindi per questo molte compagnie ancora rischiano nel passare di lì. Sì, sì, è anche vero che a questo punto, visto che l'Unione Europea sta affrontando appunto in maniera così sistematica la cosa, si dovrà in qualche modo arrivare a una soluzione politica, no? Non soltanto legata ai fatti di cronaca, ma una situazione politica, quindi concertata da tutti i paesi che sono vittime appunto di questi attacchi, per trovare una soluzione. Se ne sta parlando, se ne parla continuamente, appunto staremo a vedere, ovviamente noi vi aggiorneremo. Ci sono anche navi militari italiane, lo sappiamo, esatto. Partecipiamo anche noi a questa, esatto, a questa missione. Grazie nel frattempo per tutto questo quadro e queste testimonianze a Cristina Carpinelli. Prima di venire ad altre questioni che ci riguardano direttamente, io vi do però già anche altri aggiornamenti che arrivano questa mattina da un altro angolo del mondo, dove la situazione è veramente molto tesa. Idlib, la capitale dell'omonima provincia nord-occidentale siriana, è stata completamente distrutta dalle truppe di Damasco, che hanno bombardato anche un ospedale, mentre nella vicina Jabal al-Zawiya, teatro di uno scontro sanguinoso la scorsa settimana, i jet governativi avrebbero bombardato una moschea dove 100 civili si erano rifugiati. Queste almeno le notizie che sono arrivate nella notte. A denunciarle alla CNN un ufficiale dell'esercito siriano. Sono tutte naturalmente notizie ancora per il momento frammentarie, però arrivano sempre più. Ieri erano stati denunciati 250 morti in 72 ore, con notizie, come spesso accade in queste ore, non confermate ma sempre più drammatiche, che arrivano dal paese di Bashar al-Assad. Si starebbe preparando anche un attacco per controllare il confine con la Turchia, sempre notizie arrivate nella notte dai ribelli siriani. Oggi il Consiglio Nazionale Siriano ha denunciato appunto il genocidio, e oggi arriveranno anche gli osservatori della Lega Araba. Staremo a vedere se ci sarà l'annuncio svolta. Questo mentre i rivoltosi hanno fatto appello nelle ultime ore anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU perché si occupi della questione siriana, dove ormai si parla davvero di massacro. Staremo a vedere se sarà così. Di sicuro nella giornata di oggi arriveranno altre notizie e sapremo meglio cosa sta succedendo. Nel frattempo le 6:45 minuti, sentiamo anche come va il traffico. Ancora traffico abbastanza normale, diciamo così, in queste ore. Vi ricordo ancora una volta che oggi però sarà giornata da bollino rosso, oggi e soprattutto domani, con la chiusura delle scuole per l'inizio delle festività natalizie. Prima edizione. Parliamo di salute, parliamo di un rischio che è ancora tutto da verificare quanto sia reale. Il rischio di cui parliamo è quello di sviluppare tumori. Per questo in Francia 30.000 donne che hanno avuto impiantata una protesi al seno di tipo PIP, così viene definita, sono state richiamate dalle autorità sanitarie per rimuovere le protesi incriminate, che si utilizzano anche per interventi non solo estetici ma anche necessari, e protesi che, benché fuori dal mercato da circa 2 anni, fanno paura anche in Italia, perché anche da noi sono state utilizzate. Allora oggi è stato per questo convocato un importante vertice al Consiglio Superiore di Sanità per cercare di capire come regolarsi in Italia, cosa fare in Italia, e anche su questo, per saperne di più, io saluto Maria Luisa Pezzali. Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri ascoltatori. Si terrà questa mattina alle 11 la riunione del Consiglio Superiore di Sanità, convocata d'urgenza dal Ministro della Salute Renato Balduzzi, sulle protesi mammarie sotto accusa in Francia. La situazione sui possibili rischi per la salute è sotto controllo, ha reso noto il Ministero. La stima in base alla quale sarebbero circa 5.000 le donne italiane alle quali è stato impiantato questo tipo di protesi è ancora tutta da verificare. In attesa delle indicazioni che verranno dal vertice di questa mattina, vogliamo fare il punto della situazione con un esperto, il professor Paolo Palombo, segretario nazionale della SICPRE, che è la Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Buongiorno professore, che cosa possiamo dire in questo momento? Io credo che in questo momento noi possiamo affermare che anche in Italia abbiamo avuto sicuramente l'utilizzo di questo questo tipo di materiale della protesi PIP, non è però ancora accertato che quelle che sono state utilizzate in Italia contengono quel silicone industriale invece che il silicone medico. Siamo in contatto come Società Italiana di Chirurgia Plastica con il Ministero per cercare anche noi di dare un'informazione corretta e puntuale alle nostre pazienti. L'unico dato che possiamo aggiungere è che comunque chi è possessore di una protesi PIP e che ha preoccupazione può fare un follow up ecografico e verificare che l'impianto sia integro. Per il resto io in questo momento non mi sentirei di dare un allarme che potrebbe essere prematuro. Come fa una paziente a sapere se la protesi che le è stata impiantata è di questo tipo? Dunque, noi siamo per il momento a conoscenza soltanto del fatto che alcuni lotti sono incriminati. Abbiamo chiesto al Ministero un incontro per conoscere da parte del Ministero quali sono e se sono stati importati in Italia. Ma la sigla della protesi viene indicata sulla cartella clinica? Assolutamente sì, le protesi hanno un loro documento d'identità con un codice dei lotti, quindi chiunque ha subito un intervento chirurgico e è stato fatto un impianto di protesi di questa ditta sicuramente ha nella sua cartella clinica la carta d'identità della protesi e da quella si potrà risalire, verificare se è una protesi che contiene silicone medico o silicone industriale. Secondo lei questa stima che è stata fatta di 4-5 mila donne interessate è plausibile? Sì, potrebbe essere plausibile, diciamo se facciamo un censimento degli ultimi 10 anni, 4.000 casi potrebbero anche esserci. Si era parlato di un registro nazionale che avrebbe dovuto ricevere la segnalazione degli impianti. Questo registro è partito? Credo che la caduta del governo Berlusconi in certo qual modo possa aver rallentato questo percorso. Noi chiederemo sicuramente come Società Italiana di Chirurgia Plastica al Ministro di riprendere questa iniziativa di legge che era estremamente valida e di portarla a compimento in maniera tale che in tempo reale si possa conoscere, in casi come questo scandalo, si possa conoscere la situazione reale per ogni paziente. Grazie al professor Paolo Palombo. Anna, ti restituisco la linea. Grazie anche a Maria Luisa Pezzali. Chiudiamo così la giornata. Qualcuno con un sms ci chiede anche qualche buona notizia. Vabbè, promessa per domani. Naturalmente, prima edizione nel frattempo questa mattina invece si conclude qui. Noi ci risentiamo invece tra pochissimo, come sempre, con GR24. Peter Bescaper resta in regia. Grazie in redazione a Viola Bottoni. A tra pochissimo. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati.